tutto è a capo. Una settimana di attualità. Questa settimana si è aperta con l'annuncio della partecipazione dell'Italia ai bombardamenti sulla Libia e si chiuderà domani con la beatificazione di Giovanni Paolo II. In mezzo ci sono stati il vertice tra l'Italia e la Francia, la bocciatura da parte della Corte Europea del reato di clandestinità in Italia e le nozze di William e Kate a Londra e molto altro. Facciamo assieme il punto dei temi più significativi partendo proprio dai bombardamenti sulla Libia. Annunciati lunedì sera dal presidente Berlusconi dopo una telefonata con Obama, iniziati giovedì mattina con due tornado partiti dalla base di Trapani, hanno avuto ripercussioni in ambito internazionale con il riavvicinamento tra Italia e Francia e ripercussioni sulla politica interna con l'allontanamento, almeno per il momento, tra Bossi e Berlusconi. Partiamo dal racconto delle tensioni tra i due leader con i servizi nel nostro IGR. Dalle colonne della Padania, mercoledì, il leader del Carroccio ha duramente attaccato la decisione del governo sui bombardamenti. Sentiamo Paola Nania. Umberto Bossi sceglie il quotidiano più vicino alla Lega per parlare ai suoi alleati e ai suoi elettori. Dalle colonne della Padania usa parole esplicite e dure per commentare la decisione del governo di un maggior coinvolgimento nella guerra in Libia. Siamo diventati una colonia francese, attacca Bossi. L'aver ceduto alle richieste di Parigi avrà conseguenze gravissime, a partire dall'arrivo massiccio di profughi, costati in 3 mesi insieme alla missione militare, aggiunge ancora a Bossi, 700 milioni di euro. E ancora, non è dicendo sempre sì che si acquisisce peso internazionale. Dal PDL si tenta di smorzare i toni. Ai nostri microfoni il ministro Ignazio La Russa. È esattamente uguale a quello che avvenne quando votammo la risoluzione. Quella Lega ha una sua legittima posizione di maggiore dubbio su questa iniziativa, ma sbaglio o dico esatto quando dico che poi votarono a favore della risoluzione? Paola Nania, Radio 24, Sulle 24 Ore. Il sottosegretario agli esteri Stefania Craxi ha sottolineato come l'intervento in Libia sia sempre stata un'azione di guerra. L'Italia, da quando ha votato la risoluzione dell'ONU e che autorizza a fare tutto quello che è necessario per proteggere la popolazione libica, ha chiesto al Parlamento un mandato pieno da applicare questa risoluzione, è entrata indubitabilmente in un'azione di guerra, perché impedire a uno Stato sovrano di sorvolare i suoi cieli è un'azione di guerra. I nostri aerei che sorvolavano per controllare, comunque se attaccati avrebbero risposto, tanto per cominciare. Quindi l'altra questione che vorrei affrontare è questa: noi non stiamo rispondendo alle pressioni di Sarkozy o della Francia, noi stiamo rispondendo al popolo libico e ai loro rappresentanti che abbiamo riconosciuto ufficialmente essere gli unici rappresentanti del popolo libico, che è il Consiglio di Transizione Libico, che ci hanno reiteratamente chiesto nell'ultimo mese e mezzo di sostenere questa loro battaglia e impedire che Misurata finisca nel sangue. Faccio mie, guardi, le parole del presidente Napolitano, che dice: non potevamo restare indifferenti alla sanguinaria reazione del colonnello Gheddafi. È un atto di guerra. Queste sono le motivazioni per cui lo stiamo facendo. Il presidente della Repubblica Napolitano invece ha sostenuto la decisione sulla Libia. In una nota ha affermato che si tratta di scelte coerenti con gli indirizzi dell'ultima riunione del Consiglio Supremo di Difesa. E giovedì lo stesso presidente Berlusconi è salito al Quirinale per parlare sia della situazione libica che delle prossime mosse del governo. Nel frattempo sono arrivate dalle opposizioni le mozioni sul conflitto libico. Si voterà alla Camera il prossimo 3 maggio. Sentiamo Dario Franceschini. Il ministro degli interni attacca il presidente del Consiglio e uno dei due partiti della coalizione dice di non condividere le scelte di politica estera, la maggioranza di fatto non c'è più. Per questo noi abbiamo chiesto e ottenuto che ci sia un voto in Parlamento, anche perché deve finire questo doppio gioco della Lega, per cui fa la voce grossa in Padania e cala le braghe a Roma. Punto e a capo. Giovedì poi Umberto Bossi ha affermato di non avere alcuna intenzione di far cadere il governo. Sulla tensione all'interno della maggioranza sentiamo qual è l'analisi di Stefano Folli. Forse non avremo una crisi di governo sulla Libia, cioè sulla politica estera, sul rapporto con la NATO, con l'America. Forse non arriveremo a questo, che sarebbe un autentico disastro per la credibilità internazionale dell'Italia. Però è chiaro che stavolta la Lega ha mandato un segnale politico forte, inequivocabile, che sarebbe miope sottovalutare. E solo ragioni elettorali, come dicono gli ambienti vicino a Berlusconi solo il pensiero del voto a Milano? Anche quello, certo, ma non solo quello. Sembrano lontani i tempi del patto di ferro Berlusconi-Bossi. È come se il leader leghista si fosse pentito di aver rinunciato alle elezioni anticipate quando ne ha avuto la possibilità lo scorso dicembre. Ha scelto di continuare la legislatura pensando al federalismo fiscale, ma ora si accorge che i nodi vengono al pettine e che la Lega è in crescente difficoltà. Non solo la guerra in Libia, c'è l'immigrazione, il caso Parmalat, il nucleare, lo spazio concesso dal Premier ai suoi alleati preferiti, i responsabili. C'è il braccio di ferro estenuante di Berlusconi con la magistratura, che Bossi vive con evidente fastidio perché non piace al suo elettorato. Insomma, il sentiero è sempre più stretto e il rapporto con Berlusconi non è più quello di una volta. Non ci sono alternative a portata di mano, è vero, ma il malessere cresce. Il voto di maggio sarà quindi di estremo interesse, potrà determinare l'epilogo di una legislatura che sembra già da tempo esaurita. Sul terreno, intanto in Libia, si combatte e si è combattuto anche in questa settimana. La situazione umanitaria sta peggiorando. Misurata è la città più duramente provata, dove si combatte strada per strada e dove anche gli operatori dell'organizzazione umanitaria Emergency hanno abbandonato il campo. Lo ha raccontato Cecilia Strada, presidente di Emergency, lo scorso mercoledì al nostro Alessandro Milan. Ma è ovvio che sia un'azione di guerra, e anche ragione il presidente Napolitano quando dice che è il naturale sviluppo di una scelta di guerra, assolutamente becera secondo noi, nel senso che quando è scoppiata la crisi in Libia abbiamo detto subito le bombe e l'intervento armato non risolverà niente, non proteggerà i civili, ci hanno dato degli indifferenti, dopodiché il nostro team è stato 2 settimane a Misurata tra bombe e cecchini a soccorrere i civili, più o meno nell'indifferenza generale. Quindi al di là di chiedermi chi sono gli indifferenti, ma è ampiamente dimostrato, Misurata è lì a farlo vedere che non è servito a niente le bombe per proteggere i civili, tant'è che è una città da 2 mesi sotto assedio, da 2 mesi bombardata, da 2 mesi piena di civili. E perché Emergency l'ha abbandonata? Perché lunedì mattina solo un terzo dello staff libico si era presentato in ospedale e in tarda mattinata il direttore sanitario dell'ospedale libico ovviamente ci ha dato l'ordine di evacuazione. In Libia noi non siamo in una nostra struttura, eravamo con un team di appoggio all'ospedale locale, quando il direttore sanitario ci ha detto qui si mette male, l'ospedale è diventato un bersaglio, dovete evacuare, non abbiamo potuto fare altro che evacuare, peraltro sotto i razzi tirati sul porto anche mentre la nave salpava. Stiamo cercando di rientrare ovviamente il prima possibile. E passiamo adesso al tema dei rapporti tra Italia e Francia, della pace ritrovata. Martedì si è tenuto il vertice a Roma tra il presidente del Consiglio Berlusconi e il premier francese Sarkozy. Al centro del vertice ci sono stati i temi riguardanti l'immigrazione, la crisi libica, la revisione del trattato di Schengen e l'OPA lanciata da Lactalis su Parmalat. L'incontro è stata anche l'occasione per ricucire lo strappo aperto con la Francia, soprattutto sui temi dell'immigrazione. Andrea Viali ha fatto il punto per noi raccontandoci le fasi del vertice a Palazzo Madama. Con il vertice di Villa Madama sembra ricucito lo strappo sull'immigrazione fra Roma e Parigi. Berlusconi ha dato atto alla Francia di fare sull'accoglienza dei migranti uno sforzo superiore a quello italiano e ha spiegato che con Sarkozy chiederà all'Europa una revisione del trattato di Schengen. Nessuno di noi vuole negare Schengen, ma in circostanze eccezionali noi crediamo entrambi che ci debbano essere delle variazioni del trattato di Schengen a cui abbiamo deciso di lavorare insieme. Piano accordo è stato espresso anche sulla guerra in Libia. Sarkozy ha apprezzato il nuovo sforzo militare italiano, mentre Berlusconi ha spiegato che i nostri bombardamenti verranno effettuati con missili su obiettivi mirati. La Francia sosterrà la candidatura di Draghi alla guida della Banca Centrale Europea, ha poi fatto sapere Sarkozy. Quanto al caso Parmalat, invece l'auspicio emerso dal vertice è quello che possa nascere una società mista italo-francese. Infine la questione nucleare, la collaborazione con la Francia continuerà perché per l'Italia l'energia atomica è il futuro, ha sottolineato Berlusconi, spiegando che il referendum l'avrebbe bloccata per anni e che la moratoria decisa dal governo dopo Fukushima servirà a far tranquillizzare l'opinione pubblica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sull'incontro Berlusconi-Sarkozy sentiamo l'editoriale realizzato dal direttore di Radio 24, Fabio Tamburini, lo scorso mercoledì. L'annuncio è stato di Silvio Berlusconi, capo del governo. L'Italia ha detto bombarderà la Libia, esattamente quanto era necessario per venire incontro alle richieste di Obama, ma soprattutto per la felicità di Sarkozy, il premier che più di ogni altro ha voluto la guerra contro Gheddafi. Un annuncio, quello sui bombardamenti in Libia, avvenuto proprio poche ore prima dell'incontro a Parigi tra Berlusconi e lo stesso Sarkozy. Peccato che i risultati, dal punto di vista dell'Italia, risultino davvero disastrosi. La partita, almeno per il momento, vede i francesi in vantaggio per 4-0. Prima l'autogol sulla Libia, poi il documento a doppia firma Italia e Francia per chiedere all'Unione Europea di rivedere il trattato di Schengen, che servirà a bloccare il passaggio dei migranti tunisini in Francia, che significa, tradotto in altri termini, che resteranno in Italia. Il 3-0 è stata l'offerta pubblica di acquisto della Parmalat, lanciata dalla francese Lactalis, proprio mentre il ministro dell'economia Giulio Tremonti tentava di organizzarne la difesa. Il 4-0 è il blitz sulla Edison della francese EDF, con il licenziamento dell'italiano Umberto Quadrino e la sostituzione con un manager d'Oltralpe. Il bilancio, almeno per il momento, è per l'Italia una vera Caporetto. Intanto dalla Corte europea è arrivata giovedì la bocciatura per il reato di immigrazione clandestina introdotto dalla normativa italiana nel 2009 all'interno del pacchetto sicurezza. Ecco che cosa ne pensano il vicepresidente vicario del PDL Gaetano Quagliariello e Massimo Donadi dell'Italia dei Valori. Serve ancor di più a questo punto un'assunzione di responsabilità dell'Europa su questo problema, nella direzione della lettera e dell'accordo siglato tra Berlusconi e Sarkozy, perché se l'Europa si limita a bocciare senza poi dare delle soluzioni, finirà per essere scorta ancora più distante dai cittadini e anche dagli stati nazionali. Questa è la riprova che la Lega sa combattere l'immigrazione clandestina soltanto a chiacchiere. Con i fora di Bâle sono bravissimi. Quando si tratta però di passare dalle parole ai fatti, la Lega produce solo disastri. Questo, come le ronde, come ogni altra iniziativa, è pura e semplice demagogia che non solo non va nella direzione della soluzione dei problemi, ma anzi li aggrava. Intanto circa 200 tunisini, quasi tutti provenienti dall'Italia, sono stati arrestati la sera del 27 aprile in un parco alla periferia di Parigi. C'è stato un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Ai migranti è stata contestata una violazione della normativa sul soggiorno. Il sindaco socialista di Parigi ha condannato i fermi, definendoli scioccanti. Ecco il servizio che ha fatto Cristina Carpinelli. Il tempo di mangiare un pasto caldo offerto dalla Croce Rossa è il sogno, è andato a pezzi. Per i ragazzi tunisini, quelli arrivati a Parigi dall'Italia, quelli che in Calabria chiedevano la direzione per la Francia e che il caso ha voluto potessero passare alla frontiera di Ventimiglia. Gli stessi che portavano in tasca un documento che racconta di un'Europa disunita e cinica, che illude e disillude a piacimento. Quei ragazzi a decine sono stati arrestati ieri nella periferia nord-orientale di Parigi. Il rastrellamento è avvenuto verso le 9 di sera. Ai migranti viene contestata una violazione della normativa sul soggiorno. La maggior parte verrà portata alla frontiera. Il sindaco socialista di Parigi ha condannato i fermi. I ragazzi della rivoluzione dei gelsomini sono stati portati via a mazzi, ma questa volta nessuno li ha trattati come fiori della democrazia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Siria adesso, dove a Daraa, epicentro della contestazione e teatro di un duro intervento dell'esercito, la situazione umanitaria si fa sempre più pesante. Mancano ancora acqua ed elettricità e scarseggiano i medicinali. Il regime di Bashar al-Assad ribadisce la sua volontà di reprimere con fermezza qualsiasi contestazione. C'è uno studente siriano di 28 anni che è conosciuto con lo pseudonimo di Malata Umran ed è l'uomo che tiene le redini della guerra telematica contro il regime siriano. È nascosto nel suo appartamento a Beirut e attraverso Facebook, Twitter e siti che cambia di sovente raccoglie il materiale video, le testimonianze della rivolta e le diffonde nel mondo. Oggi uno dei cyberattivisti siriani più ricercati dai servizi segreti. Lo ha intervistato Roberto Bongiorni, che si trova per Il Sole 24 Ore in questi giorni in Libano. Penso che la gente in questa regione, sotto questo regime, questa corruzione, sotto questa pressione della polizia segreta, del governo, sotto queste ingiustizie in cui viviamo, in generale sotto questa dittatura, faccia un'opposizione silenziosa. Sanno bene qual è la natura di questo regime, ma non hanno speranza. Quello che è accaduto in Egitto e in Tunisia, anzi quello che è successo innanzitutto in Tunisia, ha influenzato tutte le regioni arabe e ha mandato a tutti un messaggio chiaro. La situazione in cui siamo non è il nostro destino, ma può essere una nostra scelta. Possiamo cominciare ad avere una speranza. E quando la gente comincia ad avere speranza, tutto cambia. E questo è il risultato di un effetto domino nei paesi arabi. La gente è scesa per le strade per abbattere il regime. All'inizio, quando erano solo 100, 200, non potevano parlare, avevano paura. Ma quando tutti sono scesi per strada, hanno cominciato a dire che non credevano in questo regime, nelle riforme. Abbiamo avuto moltissime promesse di riforme in Siria, ma sappiamo che niente cambierà. Sappiamo che non possiamo fare affidamento su questo regime per niente, per la Costituzione, per la legge, per le loro promesse. Quando riusciremo a riunire un grande numero di persone, protetti e sostenuti dalla folla, riusciremo a far sì che si possano cambiare le persone alla testa di questo regime. Punto e a capo. Il giovedì c'è stato un attentato terroristico a Marrakech, in Marocco, che ha fatto saltare in aria un caffè in una piazza centrale ed ha allargato l'area di tensione nel sud del Mediterraneo, come ci racconta Valeria De Rosa. Fino a ieri il Marocco era rimasto fuori dalle rivolte dei paesi vicini, anche se non erano mancate manifestazioni di protesta contro il governo di Mohamed VI, manifestazioni mai represse. Da ieri tutto potrebbe essere cambiato in questo paese dove il terrorismo non colpiva dal 2003 e dove il turismo rappresenta una delle principali risorse. I terroristi hanno colpito proprio dove sapevano di provocare l'eco internazionale. Piazza Gemà El Fna, poco prima di mezzogiorno, era gremita. Il caffè Argana, che sovrasta la piazza, era affollato. All'improvviso il locale è stato devastato da una esplosione. Ma a distanza di ore non è ancora chiara la dinamica. Secondo alcuni testimoni si sarebbe trattato di un kamikaze. Secondo altri, un uomo avrebbe lasciato una valigia all'interno dell'edificio uscendo prima dell'esplosione. Tutte le piste portano al fondamentalismo islamico, come conferma Marco Giaconi, direttore del Centro Militare di Studi Strategici di Roma. C'è un gruppo di combattimento islamico marocchino che ormai è affiliato ad Al-Qaeda. Questo è un gruppo che ha rotto ogni indugio per unirsi alla rete di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che è a base algerina, e quindi si è integrato in una strategia omogenea terroristica nel Maghreb. Prima è fuori gli stranieri, poi dopo sistemeremo gli infedeli tra di noi. Chi ha colpito voleva colpire l'economia del paese per mettere a repentaglio il processo di riforme democratiche avviato negli ultimi mesi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è la Francia, oltre che nella politica, anche nella notizia che ha caratterizzato la settimana economica italiana. L'OPA, l'offerta pubblica di acquisto totale, lanciata martedì scorso da Lactalis per acquisire il controllo di Parmalat. Sentiamo il servizio che ha realizzato Guido Maurino e che è andato in onda nei nostri GR. Per i risparmiatori un'OPA a 2,6 euro per azione, per i lavoratori italiani e gli allevatori la garanzia che sede, organizzazione e testa di Parmalat resteranno in Italia. Lactalis ha lanciato ieri un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Collecchio. La mossa è arrivata quasi a sorpresa, poco prima che iniziasse il vertice Italia-Francia. Lactalis, che nell'ultimo mese e mezzo ha già rastrellato il 29% di Parmalat per poco meno di 1,5 miliardi, ha messo quindi sul piatto la disponibilità a metterne altri 3,4 per il 100%. Se la cordata italiana volesse rilanciare con una contropa, a questo punto dovrebbe trovare 5 miliardi di euro, molti di più dei 3 che aveva preventivato finora. La borsa per il momento è rimasta scettica all'idea e Parmalat ha chiuso in rialzo del 10,7% a 2,56 euro, leggermente sotto il prezzo dell'OPA Lactalis, che evidentemente non appare una soglia al momento superabile. A questo punto l'auspicio espresso da Berlusconi è che la cordata tricolore trovi un accordo con Lactalis per un'operazione congiunta su Parmalat. Molto dipenderà da cosa deciderà di fare la Cassa Depositi e Prestiti, che era rimasto il vero motore della cordata italiana. I francesi intanto vanno avanti e, con la promessa di non toccare i livelli occupazionali di Parmalat, hanno incassato anche il sostegno del sindacato. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E all'interno di Focus Economia, lo scorso martedì, stesso giorno in cui Lactalis lanciava l'OPA, Sebastiano Barisoni ha intervistato l'economista francese Jean-Paul Fitoussi. Tra Berlusconi e Sarkozy, che sono due leader che hanno bisogno, per motivi diversi, di aumentare il consenso interno, Sarkozy forse più ancora di Berlusconi, visti i sondaggi in Francia. Ma insomma, la partita com'è finita secondo lei? 1-1? 2-1? 3-0? No, io non direi questo. 1-1, diciamo. 1-1. Ma in verità... L'Italia fa bella figura, perché sono sicura che l'Italia ha avuto certi compensi nell'accordo che è stato passato. Beh, compensi non ufficiali? No, ufficiali perché non conosciamo, perché sono sicuro che ci saranno soci italiani nell'impresa che nascerà dalla fusione tra Lactalis e Parmalat, per esempio. Quindi lei è convinto che vi siano state delle garanzie di Sarkozy a Berlusconi? Sì, sono convinto, ma questo è... Però, mi scusi, però allora questo vuol dire che Sarkozy in qualche modo gestiva l'operazione Lactalis. Lei mi ha detto che nasceva per caso, no? No, è un gioco di influenza. Ah, ecco. È solamente un gioco di influenza. Se le imprese non vogliono ascoltare, le imprese possono fare quello che gli pare. Ma mi dica un'ultima cosa, in verità, ma lei veramente pensa che Lactalis non abbia avvisato Sarkozy oggi che stava per lanciare un'OPA su Parmalat, dopo tutte le tensioni anche politiche che questa aveva creato? Lei pensa che non abbia... Non lo credo. Il Giappone paga il conto anche economico del terremoto e dello tsunami dell'11 marzo scorso. L'agenzia di rating Standard & Poor's ha cambiato la sua valutazione sul debito di lungo termine del Giappone, da stabile a negativo, osservando che gli oneri legati al sisma e allo tsunami aggraveranno la posizione finanziaria del paese. Deborah Rosciani. Chi pensava di avere un quadro ormai chiaro delle conseguenze provocate dal devastante sisma che l'11 marzo ha travolto il nord-est del Giappone ha dovuto ricredersi. Si va ora delineando l'impatto economico ed è in pratica un secondo tsunami. Le cifre sono da bollettino di guerra e avvitano un'economia già storicamente schiacciata da un debito pubblico di proporzioni enormi. Ecco le ultime statistiche. In marzo la produzione industriale è crollata del 15%, il dato peggiore da quando viene effettuata questa rilevazione. A pesare il tracollo dell'industria automobilistica, la cui produzione è precipitata del 57%, a causa della sospensione delle attività prima nelle aree colpite e poi in tutto il paese, degli impianti delle principali case nipponiche. Anche la spesa delle famiglie ha subito un netto peggioramento, meno 8,5 punti. Calo pesantissimo se si pensa che, come per gli Stati Uniti, i consumi privati valgono il 60% del PIL nipponico. PIL di cui la banca centrale ha dimezzato le previsioni di crescita. Quest'anno il Giappone dovrà accontentarsi di un modestissimo più 0,6%. Standard & Poor's stima che i costi della ricostruzione ammonteranno fino a 250 miliardi di euro. E sono dati che interessano anche l'Italia. Il Giappone è tra i più importanti mercati di sbocco dei prodotti base della dieta mediterranea. La pesante situazione economica del Sollevante mette a rischio, secondo la Coldiretti, oltre 500 miliardi di esportazioni di prodotti alimentari made in Italy. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo argomento: la beatificazione di Karol Wojtyła avverrà domani a Roma, ma per tutta la settimana le notizie sull'organizzazione, sulla grande partecipazione, i commenti, le interviste hanno riempito le pagine dei quotidiani, i radiogiornali e i programmi. Noi riascoltiamo cosa ci ha raccontato Andrea Viali nei GR di mercoledì. Roma si prepara ad un fine settimana impegnativo e all'insegna di un inedito intreccio fra sacro e profano per la beatificazione di Giovanni Paolo II e per il tradizionale concerto del 1° maggio. Domenica nella capitale sono attese oltre 1 milione di persone, senza contare poi i romani che parteciperanno a uno dei due eventi. Agli altri, suscitando anche qualche polemica, il sindaco alemanno ha consigliato di fare una gita fuori porta per non andare incontro a disagi che sembrano erano inevitabili. Forze dell'ordine e amministrazione comunale stanno lavorando per garantire la sicurezza e far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi. Sorvegliata speciale sarà naturalmente l'area di San Pietro, ma subito dopo la conclusione della cerimonia di beatificazione l'attenzione si sposterà a Piazza San Giovanni per il concerto rock che andrà avanti fino a mezzanotte e che come ogni anno richiamerà decine di migliaia di giovani. E non è tutto, per tirare il fiato, forze dell'ordine e romani dovranno infatti aspettare fino a martedì, visto che anche nella giornata di lunedì sacro e profano torneranno ad intrecciarsi. In mattinata è prevista una messa di ringraziamento per Papa Wojtyla, mentre in serata si giocherà l'attesa sfida di campionato all'Olimpico fra Lazio e Juventus. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo da Alberto Melloni l'analisi sul pontificato di Giovanni Paolo II. Allora, lo sforzo che mi è sembrato di poter provare a fare è stato quello di selezionare dei momenti del pontificato nei quali la sua azione di governo, il suo modo di governare attraverso i gesti, che è stata la cosa più caratteristica del suo pontificato, hanno prevalso. E mi è sembrato che questi potessero essere da un lato un elemento abbastanza sconosciuto, cioè il sinodo dell'85 sul Vaticano II, è quello nel quale ci si aspettava che lui potesse prendere una posizione contro il Concilio, invece ha assunto una posizione nettamente di difesa di quella che è stata l'eredità del Vaticano II, poi l'andata in sinagoga nell'86, la preghiera di Assisi, il mea culpa dell'anno 2000, che è stato uno degli atti più controversi sui quali ha dovuto combattere contro i propri collaboratori anche per poterlo fare, e poi quella presa di posizione contro la guerra nel 2003, quando tutto il mondo sembrava convintissimo che si dovesse andare a fare la guerra in Iraq per sventare la minaccia delle armi di distruzione di massa, e solo lui è stato per qualche settimana il capo di questa grande attesa di pace che aveva percorso tutto quanto il pianeta. E questi mi sembra che potessero essere considerati un po' delle perle di questo pontificato da valorizzare e da prendere in considerazione. Secondo lei sono state queste 5 perle a renderlo così popolare, così amato dalla gente, che ancora oggi, lo vedremo anche il 1 maggio, continua ad amarlo moltissimo? No, non credo. Credo che sia stata la televisione, sia stato il fatto che Giovanni Paolo II è stato, come un po' era incominciato già con la fine del potere temporale, il Papa è diventato una figura sempre più vicina, sempre più tangibile, che tutti possono dire io ho conosciuto il Papa, che era una cosa che 200 anni fa potevano dire pochissime persone in realtà. Per cui la sua grande popolarità è legata anche al fatto che il mezzo televisivo, del quale si fa sempre molto presto a parlare male, ha cambiato anche in modo incisivo il modo di fare il Papa, il modo in cui il Papa ha recepito dalla Chiesa. Questi atti sono stati atti invece che secondo me vanno al di là del suo pontificato, sono perle che vanno custodite. Il Vangelo è una frase molto dura sulle perle, raccomando di non dare le perle ai porci, che sono i porci dell'oblio e della dimenticanza. Credo che questi siano atti che rimangono nel futuro della Chiesa e che ancora oggi costituiscono dei nodi sensibilissimi, il Vaticano II, il rapporto con l'ebraismo, con le religioni, col proprio passato e con la guerra, con i quali anche la Chiesa di oggi e di domani dovrebbe misurarsi. Lo vediamo in questi giorni, dove la guerra arriva per la prima volta alle porte di casa nostra e dell'Europa vicinissima, e apparentemente sembra così difficile dire delle parole che non siano parole di buon senso. Un altro commento, quello di Paolo Flores d'Arcais, a 9 in punto. Per quanto riguarda la questione della santità, ovviamente è una questione che riguarda i fedeli, non un ateo come me, per cui nella rivista riportiamo due interventi di due eminenti cattolici. Uno è Hans Küng, che a tutt'oggi credo sia il più importante teologo cattolico, anche se la Chiesa ufficiale lo ha bacchettato spesso. L'altro è Dom Franzoni, che molti scrivono Don come fosse un parroco, invece Dom significa Dominus. Perché è stato l'abate di San Paolo fuori le mura, il suo titolo equivale a quello di un vescovo e come tale infatti ha partecipato al Concilio Vaticano II, credo che ormai sia uno dei non molti padri conciliari ancora in vita. Don Franzoni ha fatto una testimonianza presso la congregazione per le beatificazioni. Un tempo esisteva nella procedura la figura dell'avvocato del diavolo che doveva cercare tutte le prove contro il beatificando. A contraris, infatti, sì. Sì. Ora non esiste più questa figura, però Don Franzoni ha portato la sua testimonianza facendo notare tutti i vari momenti del pontificato di Carlo Wojtyła in cui secondo lui si viola una o più delle virtù, le sette virtù, quattro cardinali e tre teologali, che per diventare beati o santi bisogna aver praticato fino all'eroismo, questo dice dicono le procedure canoniche. Una di questi casi di non pratica delle virtù è, secondo Don Franzoni, il caso Romero. Romero fu lasciato solo da Karol Wojtyła, fu ostentatamente lasciato solo. Punto e a capo. Questa musica proviene invece da un'altra chiesa, una chiesa più lontana, l'abbazia di Westminster a Londra, dove venerdì mattina, dopo 9 anni di fidanzamento, il principe William, secondo in linea per la successione al trono d'Inghilterra, e Kate Middleton si sono sposati. I, Catherine Elizabeth. I, Catherine Elizabeth. Take thee, William Arthur Philip Louis. Take thee, William Arthur Philip Louis. To my wedded husband. To my wedded husband. I, William Arthur Philip Louis. I, William Arthur Philip Louis. Take thee, Catherine Elizabeth. Take thee, Catherine Elizabeth. To my wedded wife. To my wedded wife. Un matrimonio reale, un matrimonio di cui e su cui si è parlato a lungo. Noi abbiamo sentito sulla figura di Kate, tra gli altri, Federica Brunini, autrice del libro Sarò regina. Ti confesserò che in realtà ho iniziato a occuparmi di lei perché mi stava molto antipatica ed ero convinta che fosse una fredda calcolatrice molto astuta e che mirasse soltanto alla corona. In realtà, frequentandola, come dici tu, un po' più a lungo, quindi studiando su di lei e intervistando anche una cerchia di personaggi che hanno avuto a che fare con lei nelle varie fasi della sua vita e della sua storia d'amore, in fondo è una persona davvero innamorata di William, è una persona molto determinata, molto forte e davvero, come dire, sincera e genuina nei suoi sentimenti e anche nell'assumersi questa grande responsabilità che è poi quella di essere la consorte del prossimo re d'Inghilterra. L'ombra di Diana, lei come la vive? Ah, guarda, il fantasma di Lady Diana sarà sicuramente uno di quelli che la tormenterà e la perseguiterà più a lungo, e a partire proprio dal giorno stesso delle nozze io credo che la stampa si scatenerà a fare confronti, a dire chi era più elegante, a dire chi era più bella, più snob, più affascinante, chi aveva contatti migliori peggiori. Di sicuro il fantasma di Diana, come si è detto, influenzerà il cammino della principessa, ma credo che lo influenzerà in positivo, nel senso che Kate ha soltanto da imparare dalla lezione di Diana su cosa non fare, su come non diventare vittima né delle eminenze grigie di Buckingham Palace né dei paparazzi e della stampa. In questo William credo che l'aiuterà moltissimo, perché non dimentichiamo che William è la prima, anzi la seconda dopo la madre, vittima dell'intrusione dei paparazzi nella vita privata dei Windsor, e ha sempre giurato e fatto di tutto perché Kate venisse il più a lungo possibile protetta da questa ingerenza. Quindi credo che insieme riusciranno sicuramente a gestire bene tutte le situazioni e le difficoltà della loro vita. Punto e a capo. Negli Stati Uniti adesso, dove tornado e piogge incessanti si stanno abbattendo da diversi giorni, sulle zone del sud, il presidente Barack Obama ha preso un impegno solenne con le popolazioni colpite. Non vi lasceremo soli, ha detto, e vi aiuteremo a ricostruire. Il punto nei GR24 di venerdì a cura di Laura Bettini. Lo stato più colpito è l'Alabama, dove si contano centinaia di vittime e una città, Tuscaloosa, mezza rasa al suolo. Ma tutta l'area sudorientale degli Stati Uniti, dal Kansas alla Georgia, è stata investita da forti temporali e soprattutto da una serie incredibile di 137 tornado, alcuni di eccezionale forza, come quello ripreso proprio da un abitante di Tuscaloosa e ritrasmesso dalla CNN. Si capiva che stava risucchiando tutto, racconta il testimone Chris England. Non riusciva a distinguere cosa, ma si vedevano diversi colori turbinare. Erano tetti, cartelloni, alberi, pali della luce e anche persone. Una centrale nucleare è stata obbligata a ricorrere ai generatori di emergenza e disporre l'evacuazione di tutto il personale. Sono scene incredibili quelle che arrivano dai 13 stati colpiti, molti dei quali hanno già dichiarato lo stato di emergenza e l'Alabama quello di catastrofe. E proprio qui, in Alabama, arriverà oggi il presidente Obama, prima di trasferirsi a Cape Canaveral per assistere al lancio dello shuttle. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Dopo la visita in Alabama, il presidente americano è andato venerdì a Cape Canaveral, alla base NASA, dove lo shuttle era pronto per effettuare il suo ultimo lancio, previsto per ieri sera e rimandato. A raccontare quella che è la fine di un'era nello spazio e l'apertura di un'era nuova, c'è per noi a Cape Canaveral Gigi Donelli, abitualmente conduttore di questa trasmissione. Sì, Alessandra, buongiorno. Effettivamente il presidente degli Stati Uniti è arrivato al Kennedy Space Center di Cape Canaveral, ha salutato tutti ed è ripartito. Perché quanto è accaduto, purtroppo accade anche con una certa frequenza nell'esplorazione spaziale, un problema tecnico in un sistema di riscaldamento nel grande serbatoio che di fatto trasforma quel mix di idrogeno e ossigeno in benzina, per così dire, dello shuttle, ha dato forfè. Morale, bloccato il conto alla rovescia, astronauti ritornano verso le loro, la zona appunto dove trascorrono il tempo quando sono al Kennedy Space Center, lancio rinviato di almeno 48 ore, sperando che saranno sufficienti appunto a rimettere le cose a posto. Punto e a capo. La memoria in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia è il tema della 24esima edizione del Salone del Libro, che si terrà a Torino dal 12 al 16 maggio e che è stato presentato giovedì. Per noi lo ha seguito Alessandra Tedesco. Sarà la mostra L'Italia dei Libri, dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, l'attrattiva di questa edizione del Salone del Libro. La storia dell'Italia e degli italiani vista attraverso 150 libri, fra cui sono stati selezionati 15 superlibri. Dal presidente del Centro per il Libro e la Lettura, Gian Arturo Ferrari, la proposta di rendere la mostra permanente, creare proprio a Torino un museo del libro. Bisognerà però vedere se ci sono le risorse. Per il secondo anno consecutivo, tema del Salone, la memoria, vista stavolta come seme del futuro. Per il direttore editoriale del Salone, Ernesto Ferrero, il lavoro sulla memoria non era terminato. Quest'anno continueremo a guardarci indietro, ma senza retorica celebrativa e senza nascondere niente, anzi semmai gettando luce, perché solo capendo quello che è capitato poi possiamo andare avanti. Grande spazio verrà dedicato quest'anno ai giovani con il padiglione Bookstock. E infine ricordiamo che il paese ospite di quest'anno è la Russia, guest star la Palestina, che torna dopo il 2008 con un suo stand per proporre voci nuove della sua letteratura. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E da Torino, in occasione del Salone, Radio 24 sarà presente con numerosi programmi in diretta ed appuntamenti speciali. Sul sito radio24.it tutti gli appuntamenti della radio e la possibilità di votare il libro che meglio rappresenta a vostro parere il nostro paese nella sua storia unitaria. La musica invece sarà la protagonista il 1 maggio a Roma. Anche il tradizionale concerto di Piazza San Giovanni è dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia e sarà condotto quest'anno da Neri Marco Re, con i big della musica italiana e anche con il contributo speciale di Ennio Morricone. Ad aprire sarà Eugenio Finardi. Marta Cagnola lo ha intervistato nel GR Spettacoli di questa settimana. Apriamo il concerto del 1 maggio del 150enario dell'Unità d'Italia, è un momento credo importante, emozionante, che sto affrontando con emozione, con molta gioia. Penso che farò, sai, extraterrestre ed obbligo. Poi c'è una canzone che mi preme molto di fare, che è F104, la radio. Abbiamo 12 minuti, per cui dobbiamo fare tutto in 12 minuti. Eugenio, il tema del concerto del 1 maggio di quest'anno sarà La storia siamo noi. In questo caso, in queste canzoni, c'è la storia e anche la tua storia. Ma io credo che a un certo punto la storia siamo noi, cioè oramai io e alcuni altri siamo volenti o nolenti diventati parte della storia patria, no? A un certo punto non si può menzionare gli anni 70 senza parlare di un certo momento anche artistico, no? E quindi lo stesso fatto extraterrestre, per esempio, può essere una canzone che sembra non centrare niente, però in realtà è una canzone sulla fuga da se stessi, che è stato uno dei più grandi temi della nostra generazione, credo del nostro secolo, del nostro tempo. Per lo sport, questa è stata la settimana del classico. Real Madrid e Barcellona si sono sfidate mercoledì sera nella partita di andata per l'accesso alla finale di Champions League, che si terrà a Wembley il prossimo 28 maggio. La sfida si è conclusa a favore del Barcellona, che porta a casa la partita con un secco 2-0 e con l'espulsione di José Mourinho. Il nostro Dario Ceccarelli ha dedicato il suo graffio proprio al tecnico portoghese. La batosta col Barcellona non abbassa l'autostima di Mourinho. Mi hanno espulso senza un perché e senza il mandato dell'ONU. I fatti e i temi di questa settimana per oggi si fermano qui. Appuntamento a sabato prossimo.